Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. Dunque, questa mattina si è temuto il peggio sui mercati perché l'accordo, che in realtà poi è slittato domani come voto per salvare Cipro, voi direte cosa c'entra Cipro sui mercati? Non è tanto il peso di Cipro, i 10 miliardi di euro di prestito, di aiuti per Cipro, quanto il fatto che per ottenerli i ministri finanziari della zona euro hanno deciso che questi 10 miliardi di aiuti andavano finanziati 6 miliardi attraverso un prelievo forzoso sui conti correnti dei ciprioti e tra l'altro dei residenti, non dei non residenti, perché Cipro ci tiene all'essere comunque una specie di centro finanziario offshore all'interno dell'Unione Europea. E quindi si tendeva anche a spalmarlo su tutti, perché un prelievo forzoso solo sui conti correnti più importanti sarebbe andato a colpire gli stranieri sostanzialmente. E quindi si è preferito fare una specie di tosatura generalizzata. Ora l'accordo ancora, il voto slitta domani. Le banche a Cipro restano chiuse oggi e domani e dopodomani. Oggi sono chiuse perché si celebra il lunedì verde, è l'inizio della quaresima ed è una vera quaresima se le cose verranno confermate per i ciprioti. Ma dicevo, l'effetto Cipro non è sui 10 miliardi, cifra risibile per l'Unione Europea, ma per il fatto che sarebbe stato violato un tabù, cioè per salvare o per trovare degli aiuti per uno Stato in estrema difficoltà come debiti si vanno a toccare i conti correnti. Per l'Italia non è una novità, qualcuno si ricorderà cosa capitò nel 92-93, no? Era Amato, se non ricordo, Presidente del Consiglio, e poi con un prelievo, diciamo, poi restituito per far entrare l'Italia nell'euro. Detto questo, però, è chiaro che questa mattina i mercati perdevano molto, perché quando tu vedi Moody's, una delle agenzie di rating, che dice attenzione, il prelievo forzoso sui conti e depositi delle banche cipriote segna un passo decisivo verso la riduzione o eliminazione del supporto sistemico per i creditori in Europa, si intensifica il rischio di una fuga di capitali, implicazioni negative potrebbero esserci sui voti degli istituti di credito europei, delle banche europee. E poi Morgan Stanley che dice in un report: l'introduzione di un prelievo sui depositi bancari a Cipro sembra aver rotto un altro tabù, questo va al di là del mercato e delle nostre aspettative, sollevando timori di un possibile errore politico che potrebbe causare un rischio sostanziale di contagio ai paesi periferici. Tradotto vuol dire: avete rotto il tabù del prelievo forzoso sui conti correnti? Beh, questo allora vuol dire che si potrà applicare, o si potrebbe applicare, anche altri paesi in difficoltà, e quindi Portogallo, Spagna e Italia. Allora, un gufo per partire a Morgan Stanley, perché mi sembrano casi molto molto diversi. Devo dire che le rassicurazioni arrivate da vari esponenti europei vanno in questo senso. Un gufo, perché è chiaro perché diamo il gufo a Morgan Stanley, perché se tu inizi a ventilare la possibilità che questo si applichi anche a altri paesi, dai benzina sul fuoco della speculazione, per cui rischia di diventare poi una profezia che si autoavvera. Gufo e poi notizie in breve. Avete ragione, era il 6 per 1000 del 92 di Amato, che non fu mai restituito, invece l'eurotassa di Prodi fu restituita. Scusatemi, ma sono passati un po' di anni anche per me, e chiedo venia. Detto questo, 20 anni almeno. Detto questo, mi sembra eccessivo iniziare a dire: ecco, siccome per salvare Cipro avete chiesto una tassazione, i capitali, i conti correnti a Cipro, i depositi bancari sono particolarmente ricchi, perché ripeto, lì vanno anche molti conti correnti di residenti stranieri. Allora è chiaro che Cipro ha puntato su quella che era la carta più forte. Da lì a dire che si apre il varco per fare la stessa cosa anche negli altri paesi europei, mi sembra appunto voler alimentare paure, preoccupazioni, tensioni, anche perché l'unico paese che l'ha seguita è la Russia, che ha seguito Morgan Stanley, la Russia che ha detto di essere preoccupata non solo per chi ha depositi nelle banche cipriote, tra cui molti cittadini russi, e ha definito ingiusta, non professionale e pericolosa la scelta sui conti correnti. Però tutto questo interessamento russo si spiega, ripeto, col fatto che nella parte ortodossa di Cipro ci sono anche molti conti correnti russi. Però Angela Merkel ha detto, la numero uno tedesca, il caso di Cipro è un caso speciale, i risparmi tedeschi sono sicuri. E Wolfgang Schäuble, il ministro tedesco delle finanze, ha detto che potrebbero essere esentati i piccoli conti correnti, quelli con meno di 100.000 euro. L'associazione delle banche italiane, l'ABI, ha detto che ha escluso il contagio per le banche italiane. Lo stesso presidente della Consob Vegas ha detto che non esiste alcun pericolo per l'Italia. Faccio notare che l'esposizione delle nostre banche verso Cipro è limitata a 900 milioni di euro su un totale di 23 miliardi di esposizione delle banche europee verso Cipro. Le più esposte sono le banche greche, 8 miliardi e 3, le tedesche quasi 6 miliardi, poi le olandesi 1 miliardo e 6, le britanniche 1 miliardo e mezzo. La stragrande maggioranza dei crediti, tra l'altro, è al settore privato non bancario. Circa 8 miliardi e mezzo di euro sono in carico al complesso delle banche straniere sotto forma di esposizione indiretta, derivati e garanzie. E quel paese più esposto verso Cipro fuori dall'Unione Europea è proprio la Russia. Ecco perché oggi sia Putin che Medvedev hanno dato dichiarazioni così forti. Le banche russe hanno tra i 30 e i 40 miliardi, quindi una volta e mezza l'intera esposizione dell'area euro, di prestiti in essere con compagnie cipriote e 12 miliardi di depositi di cittadini russi a Cipro. Ecco perché sono arrabbiati. Spesso sono i miliardari russi che hanno i conti correnti a Cipro, parliamoci chiaro. Sappiamo che in Russia le differenze tra chi ha tanto e chi ha pochissimo si sono ampliate, è inutile girarci attorno, che ci sono migliaia e migliaia di neomilionari e che molti di questi hanno un conto corrente a Cipro. Da lì si spiega tutta questa posizione molto dura, molto critica della Russia. Va a proteggere i suoi miliardari. Pensate che la seconda banca russa è esposta verso Cipro per circa 14 miliardi. Dicevamo, si è temuto il peggio, in realtà poi la borsa ha molto corretto il calo di questa mattina. Adesso perde solo lo 0,60% Milano, Parigi lo 0,40%, Francoforte lo 0,30%, Londra lo 0,40%, gli Stati Uniti sono invariati, anche l'euro che era sceso a quota 1,28 è tornato a 1,30 quasi, 1,29,90 per la precisione. Tra i titoli, molto bene oggi Parmalat più 8,26%, ST Microelectronics più 5,47%, A2A più 4%, Finmeccanica più 1,30%, Lottomatica più 1,20%, Fiat e Saipem più 1%, Terna più 0,90%. Restano comunque negative le banche, Monte dei Paschi meno 4,60%, Unicredit meno 3,45%, Popolare Emilia Romagna meno 2,60%, Banco Popolare meno 2%, come Banca Intesa, San Paolo, Popolare di Milano meno 1,80% e UbiBanca meno 1,60%. Negative anche Salvatore Ferragamo meno 1,70% e Azimut meno 1,60%. Lasciamo stare per un attimo Cipro e le conseguenze che può avere come effetto, ripeto, più che altro simbolico. No, guardate, a chi chiede a chi toglieranno, no, il prelievo è su tutti i conti correnti, da quello che abbiamo capito, per evitare che fosse solo sui conti correnti dei miliardari che hanno lì i conti correnti, essendo Cipro una specie di offshore, non dico un paradiso fiscale ma ci va molto vicino, lo si è esteso a tutti, ma è a tutti i conti correnti. Tra l'altro è del 9,9% sui conti oltre 100.000 euro e del sarebbe del 6,75% su quelli sotto i 100.000 euro e poi la tassazione di impresa salirà dal 10 al 12,5%. Ripeto, però il voto è slittato domani. Dicevo, di Cipro parleremo dopo, nella seconda ora del programma. Invece c'è una buona notizia, di cui anche di questa parleremo tra breve, e cioè l'Unione Europea ha aperto alla possibilità che vengano conteggiati in maniera flessibile tutti i pagamenti che la pubblica amministrazione italiana, in questo caso, deve alle imprese. E da questo punto di vista è un tema fondamentale. Ieri è tornato a chiedere che sia la prima azione del governo il presidente di Confindustria Squinzi. Ci sono, secondo il calcolo del Centro Studi di Confindustria, almeno 70 miliardi di euro che il nostro Stato, la nostra pubblica amministrazione, che si chiami ASL, che si chiami Ministero, deve alle piccole e medie imprese. Glieli dovrà dare questi soldi prima o poi. In questo momento non glieli dava, cioè l'effetto calcolato dalla CGIA di Mestre è stato veramente un nulla nello spazio. 400 milioni su 70 miliardi, quello che per ora la pubblica amministrazione ha ridato. La Confindustria fa da sempre notare che l'effetto volano, l'effetto virtuoso, tu ridai questi soldi, vuol dire che le imprese possono avere maggiori crediti in banca, tornano a pagare i dipendenti, ma soprattutto ci pagano anche le tasse su questi soldi, quindi lo Stato comunque ha un introito da questi soldi che ritorna. E poi, insomma, non esiste che tu da centinaia di giorni in alcuni casi debba dei soldi a un imprenditore a cui magari chiedi di essere in regola con l'avversamento fiscale, con le tasse, giustamente, e poi però lui rischia di chiudere, come spesso ci scrivete, perché nel frattempo lo stesso Stato che gli chiede le tasse non gli ha ancora pagato i servizi che l'imprenditore ha reso o i beni che ha venduto. Allora l'Europa apre questa possibilità, c'è un accordo infatti tra il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani e il commissario europeo Olli Rehn. Avremo Tajani ospite più avanti. Un accordo che prevede che si possa conteggiare in maniera diversa rispetto al deficit, cioè che lo Stato che inizia a pagare, non so, poniamo 10 miliardi, questi soldi non vengano conteggiati nel deficit vero e proprio, quello che se superi il 3% ti porta alle sanzioni di Maastricht, cioè che essendo pagamenti dovuti non entrino in quel conteggio. Mi sembra una grandissima notizia, perché se ne sappiamo approfittare potremmo, con scadenze, con tranche, poniamo di 10 miliardi nell'arco di 2 anni, risolvere tutto questo problema. E quindi le campagne ci vogliono, una volta tanto che dall'Europa arriva una buona notizia. E questa è la buona notizia di oggi, di cui parleremo, ogni tanto ce ne abbiamo di buone notizie. Invece vorrei farvi sentire un passaggio, prima di arrivare alle altre notizie, di quanto ha dichiarato oggi il ministro ancora in carica Fornero, nel giorno in cui, tra l'altro, lo dico perché parlavamo di buone notizie, anche a gennaio le nostre imprese hanno ottenuto un nuovo dato molto forte sulle esportazioni, più 8,7%, le importazioni continuano a calare, meno 1,8%, perché non si spende in Italia, ma le nostre imprese, quando possono, hanno agganciato i mercati, quelli che crescono di più. Il deficit commerciale è migliorato a 1,6 miliardi, ma noi stiamo esportando bene in Giappone, più 25%, in Cina, più 25%, in India, più 7%, in Russia, più 15%, male in Spagna chiaramente, bene però in Gran Bretagna, più 8%. E in questa giornata il ministro Fornero, oggi intervenuta a margine del convegno dell'AIFI a Milano, ha detto: ho lavorato molto ma con scarsi risultati. Allora, io sono un ministro in uscita, l'ho detto prima, ma credo di poter dire in maniera molto tranquilla: sono un ministro che ha lavorato molto. Risultati sono pochissimi, lo devo dire con molta franchezza, però possiamo anche dirci qualche cosa che è, diciamo così, il senso dell'operazione, che era un'operazione per la crescita, E io mi auguro veramente che dalla prossima settimana ci sia un governo nuovo e che questo governo riprenda, completi, corregga tutto quello che vuole, le cose fatte, ma riportando velocemente il Paese su un sentiero di crescita, perché noi non possiamo permetterci oggi, con i problemi che abbiamo occupazionali e di reddito, non possiamo permetterci la decrescita. Tra l'altro, sulla riforma delle pensioni, la Fornero ha sottolineato che c'è stato detto che è stata una riforma frettolosa, è stata fatta con un po' di strappo con le parti sociali, ma c'erano solo 15 giorni di tempo e se devi spegnere un incendio non puoi convocare prima le riunioni. Sì, devo dire, tutto vero è quello che dice il ministro Fornero, erano giorni drammatici un anno e passa fa, e quella riforma serviva per tranquillizzare i conti, la tenuta dei conti futuri dell'Italia. Però adesso non posso polemizzare, ci fu anche una resistenza da parte del ministro nell'accettare che sugli esodati i calcoli erano stati sbagliati e che era stato preso una topica su questo. Si poteva accettare fin da subito che c'era un errore e porre subito rimedi. Siamo andati avanti delle settimane, dei mesi, con le cifre dell'INPS, le cifre del ministro, gli esodati che non si capiva se fossero 20.000, 30.000, 65.000, 130.000, ecco. Forse questo si capisce. Un conto è studiare, lo dico anche al sottoscritto, studiare e descrivere i fenomeni, un conto poi fare il ministro. C'è sempre una certa differenza tra applicare teorie e poi tra elaborare teorie e metterle in pratica. Lì per lì, a mio avviso, ci fu una certa resistenza ad ammettere che c'era stata una, si era pestata una buccia di banana sul tema degli esodati. Nel frattempo, oggi, ultima notizia, il Tribunale di Taranto ha accolto il ricorso dell'Ilva contro la decisione del GIP Todisco di non autorizzare la vendita di prodotti finti e semilavorati, e il GIP aveva vincolato l'incasso di questa vendita che sarebbe avvenuta attraverso i custodi giudiziari, quindi un punto a favore dell'azienda. Noi invece parliamo di un'operazione che oggi è partita in borsa e che riguarda grandi ma anche e soprattutto piccoli azionisti. Sì, perché è partita oggi l'offerta pubblica di acquisto del gruppo Salini sul gruppo Impregilo, e il termine ultimo per aderire è il 12 aprile. Ricordo che Salini possiede ad oggi quasi il 30%, il 29,8% di Impregilo. E ha, come ricordavamo, lanciato un'offerta da 4 euro per azione su quello che resta del capitale, quindi il 70%. Ora, se tutti gli azionisti consegnassero le azioni a 4 euro a Salini, l'esborso massimo, cioè in caso di adesione di tutto il rimanente 70%, sarebbe di 1 miliardo e 200 milioni, quello che dovrebbe tirar fuori Salini. È chiaro che l'obiettivo è arrivare alla fusione Salini Impregilo, che porterebbe a un campione nazionale, insomma, nel settore delle costruzioni, con un giro d'affari da 4 miliardi e mezzo. Impregilo, infatti, è il primo gruppo di costruzione italiano con un 2 miliardi e 2 di giro d'affari e 10 miliardi e mezzo di ordini in portafoglio, 20.000 dipendenti. Salini ha invece ricavi per 1 miliardo e 8 e anche lì un portafoglio ordini di 10 miliardi. Perché però lanciare un'OPA su tutto, un'offerta quindi su tutto il capitale dell'Impregilo? Lo chiediamo a Pietro Salini, appunto amministratore delegato di Salini e di Impregilo. Buonasera. Buonasera. Perché? Se posso cominciare, è quella di creare un gruppo di una dimensione diversa, cioè un gruppo che non ha più una dimensione d'Italia italiana, ma diventa una dimensione globale. Tutti i nostri concorrenti internazionali hanno una massa importante che gli consente di fare investimenti e di investire in ricerca, in tecnologia e in progetti di grande dimensione in modo diverso da quello che una piccola società o una media società, per quanto grossa nel nostro paese, possa fare. Quindi l'idea di base è che, mettendo insieme queste due società grandi, perché sono la prima e la terza del nostro paese, si possa creare in nuce quel campione nazionale a cui lei accennava e che abbia la capacità di essere in molti paesi del mondo, avendoci un patrimonio di competenze, di persone, di capacità di investimento superiori a quello che le singole imprese hanno. Ecco, perché però arrivare a un'offerta pubblica su tutto il capitale? Voi avete bisogno, se ho capito bene, di un 66% minimo del capitale per far passare la fusione in assemblea, cioè senza questa quota di capitale salta la fusione? Diciamo, la fusione così come è intesa semplicemente di due società con una delibera dell'assemblea straordinaria, senz'altro senza raggiungere la percentuale prevista dalla legge di 2/3, non può essere effettuata. Ci sono ovviamente altri modi che consentono di integrare le società, ne cito una fra tutte, che è quella di gestire l'azienda come una controllata, che quindi se si raggiunge oltre il 50.1% della proprietà si possa gestire come controllata all'interno di un gruppo. Non è la nostra volontà, che invece è quella di riuscire a fare un singolo soggetto che si possa presentare sui mercati con una singola organizzazione, cogliendo tutti quei benefici di sinergie, di costo e di ricavo che solo la organizzazione in modo unitario possono consentire di cogliere. Ecco, però l'esborso è alto, cioè se tutti aderissero, 1.200.000.000 di euro li reggete? Sì, direi proprio di sì. Deve pensare che sostanzialmente da questo 1.200.000.000, se questi tutti fossero d'accordo nel consegnare le azioni all'OPA, circa 600.000.000 verrebbero direttamente pagati come dividendo da Impregilo, in forza di quella operazione che siamo riusciti a fare di rifocalizzazione della società Impregilo nel segmento delle costruzioni e di cessione, valorizzandole, di quell'asset di concessioni che era Ecorodovias, che abbiamo interamente ceduto nel corso degli ultimi mesi in Brasile. Ecco, solo questa operazione ha dato in pregiro circa 917.000.000 di cash in positivo e quindi consente sostanzialmente la realizzazione di un'importante plusvalenza e della distribuzione di un dividendo così importante. Di fronte a questo primo forte riduzione del debito, sempre nell'ipotesi in cui si raggiungesse l'assoluta totalità delle quote, si avrebbe poi, diciamo, dovete immaginare una EBITDA che è superiore ai 500.000.000 l'anno, cioè diciamo che il debito residuo varrebbe sostanzialmente in un rapporto di grosso modo 1 punto qualcosa per cento della EBITDA, una volte, il che vuol dire che sostanzialmente in un anno di lavoro più o meno potrebbe essere concluso il debito rispetto alla generazione di margine che la società che stiamo disegnando riuscirebbe. Quindi secondo lei l'esborso, perché voi per acquistare il 29% di Impregilo avete speso circa 300.000.000 di euro facendo ricorso agli anticipi sui cantieri, ma voi dovrete restituire queste somme prima o poi? No, guardi, allora, questa è una vecchia questione che ci aveva visto, diciamo, in un'epoca in cui forse il conflitto era più ampio di quello che c'è oggi su questo tema, ma diciamo i cantieri sono stati tutti quanti largamente sostenuti dalle anticipazioni dei clienti e da quant'altro, tant'è che la produzione di Salini è in fortissima crescita, è cresciuta quest'anno del 28% e nel 2013 si pensa che superi addirittura questa crescita oltre il 28%, raggiungendo i 2.300.000.000 solo come Salini. È evidente che se gli anticipi fossero stati messi a disposizione di altri progetti, i cantieri non avrebbero questa generazione di ricavi, non si sarebbe potuto dare luogo a questo tipo di crescita e a sostenerla. È evidente che qui hanno giocato due ruoli, cioè il fatto che Salini avesse un bassissimo indebitamento, una leva molto modesta, deve pensare che dopo l'investimento di 300.000.000, come lei dice, nella società Impregilo, abbiamo un debito complessivo netto di 173.000.000, il che vuol dire che quasi la metà dell'investimento è fatto al debito e il resto con la cassa. Allora, veniamo alle due ipotesi possibili, perché la famiglia Gavio, che attraverso la Igli ha il 29,9 di Impregilo, potrebbe decidere di non darvi le azioni. A quel punto voi arrivereste, se tutti offrissero le loro azioni, comunque al 70% quasi, anzi un po' di più, 70,1, il che vi permetterebbe di controllare, di far lanciare la fusione, tra l'altro spendendo meno. E questa è un'ipotesi. Oppure famiglia Gavio decide di consegnare tutto il suo capitale, il 29,9%, e voi a questo punto arrivate al 100% del capitale, ammesso che tutti gli azionisti poi piccoli diano le loro azioni. Qual è l'ipotesi che lei preferisce? Spendere un po' di meno anche senza l'ok di Gavio o avere il 100% e poi fare un delisting? L'ideale nostro sarebbe quello di avere, io dissi anche prima, una percentuale bulgara, perché significa... Cioè il 100% del diciamo. Avere una facilità estrema nel realizzare il progetto, ne abbiamo bisogno, la rapidità secondo me paga, perché oggi siamo in un mondo estremamente difficile e complesso, e poter fare questa operazione prima piuttosto che dopo cambia senz'altro la capacità dell'impresa di essere presente e i suoi dati, diciamo, di prospettici. Quindi per me, di fronte al fatto di una scelta, è ovvio che sceglierei il fatto di avere la semplicità dell'aggregazione come esito dell'OPA. Abbiamo offerto un prezzo molto, molto tondo, e questo proprio nell'ipotesi di fare un investimento importante che ha la sua logica però nei razionali industriali. Questa non è un'operazione finanziaria, è un'operazione che si fonda sul fatto che le due aziende abbiano effettivamente una generazione di valore dato dalla loro aggregazione, che siamo solo noi in grado di poter fare attraverso la messa a fattor comune di due aziende che fanno questo mestiere, tutte e due, che lo fanno con queste dimensioni e con questa presenza sui mercati globali, cioè la creazione di valore esce fuori proprio dall'unione fra Salini, certo, e Pregilo, non uscirebbe fuori da un'aggregazione qualsiasi con altre realtà, meno che meno se non fossero insieme nello stesso settore, e precisamente nel segmento delle costruzioni. Quindi l'ipotesi migliore per voi è che Gavio dia tutta la sua quota. Domanda, ammettiamo che voi arriviate, che Gavio darà buona parte della sua quota, arriviate al 90-95%, magari Gavio ha tutta la quota ma qualche azionista non la vuole dare. Voi a quel punto leverete il titolo dalla borsa, cioè farete delisting? No, beh, diciamo, ci sono delle situazioni in cui la legge prevede lo squeeze out, cioè se si supera il 95% c'è sostanzialmente un prezzo offerto al residuo 5%. Sì, quello è residuale, ma diciamo 90%, 88%, mettiamo che... In quel caso valuteremo qual è la situazione. È ovvio che un'azienda che è quotata ha delle, diciamo, delle tecnicalità e, diciamo, delle procedure da seguire che sono piuttosto complesse e più lunghe, mentre un'azienda non quotata ha una semplicità, diciamo. Quindi meglio essere non quotati? L'integrazione, no, questo, diciamo, non è una cosa, sono due cose da valutare in quel momento, perché naturalmente il fatto poi dei costi di un nuovo IPO è una questione da guardare, bisogna, perché anche questo naturalmente è una considerazione che... Cioè di un nuovo ricollocamento di un nuovo gruppo avrebbe dei costi comunque. Avrebbe certamente dei costi importanti, trattandosi di un'azienda di grandissime dimensioni rispetto al di oggi, quindi anche un'operazione di IPO completa. Dovremo vedere un po' se conviene ricostituire il flottante oppure ecco, andare al delisting, fare la fusione e poi rifare il re-IPO. E cioè ricollocarvi in borsa con un nuovo, diciamo, con un nuovo nome. Lo vedremo dopo. minuti, riprende Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Vedo che molti vogliono sapere poi quella che è la domanda, ma la proposta per salvare Cipro con un prelevo forzoso sui conti correnti, si legge Cipro ma si dice Italia o si guarda l'Italia? Ma io starei sempre attento ai catastrofismi, insomma, la condizione del nostro deficit è messa meglio di quella, questo va riconosciuto anche al governo Monti, di quella della Francia, per esempio, per cui allora perché non dire si legge Cipro e si dice Francia? Chiedo. No, io starei molto, molto cauto su questa analisi. Comunque, è la domanda di fondo per il prossimo approfondimento. Adesso, però, partiamo dalla borsa, che ha preso una grossa paura questa mattina sull'ipotesi Cipro, e però alla fine non ci ha creduto, nel senso che da cali vicini al 3% siamo arrivati a un meno 0,85%. La borsa. Sì. Allora, male le banche, meno 5% il Monte dei Paschi, meno 3,61 Unicredit, meno 2,80 Popolare Emilia Romagna, meno 2,60 UbiBanca, meno 2,5 Intesa San Paolo e anche il Banco Popolare, meno 2 Mediobanca, meno 1,60 la Popolare di Milano. Guido Maurino, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Effetto Cipro, effetto... Sì, c'è soprattutto un effetto Cipro per spiegare l'andamento generale del settore bancario italiano. Poi ci sono alcuni temi specifici, visto che per molte banche nei giorni scorsi sono arrivati anche i conti dell'anno, e per cui ad esempio su Unicredit questo meno 3,61% è spiegato anche in parte dalle prospettive considerate certo. deboli per il 2013. Il Banco Popolare meno 2,51 ha registrato venerdì una perdita superiore a quella che erano le attese del mercato, quindi oggi è stata anche un po' penalizzata da questa cosa. Domani poi ci sarà a chiudere la Popolare di Milano, che oggi ha ceduto l'1,65%. Per cui insomma, però diciamo, cali anche in questo caso che si sono ridotti rispetto a questa mattina, quando insomma si temeva il peggio. Lo spread da 3,30 è sceso a 3,24, insomma non è bellissimo, nel senso che a noi piace sotto i 300 punti almeno, però non è nemmeno in netta crescita. Andiamo sui titoli in controtendenza oggi, mi sembra la cosa più interessante. Parmalat più 8,26%, ST Microelectronics più 5,38% e di nuovo A2A più 3,14%, ha guadagnato il 16% dopo i conti diffusi 3 giorni fa. Sì, per quello che riguarda Parmalat, gli acquisti si sono concentrati soprattutto nell'ultima parte della giornata, attorno alle 5 il titolo è stato sospeso in asta di volatilità e su questo valore di 2,044 euro più 8,26% rispetto a venerdì è stata anche poi la sua chiusura finale. Il titolo ha già guadagnato l'11% nelle ultime 2 sedute ed è atteso fra 2 giorni dei conti annuali del gruppo. Abbiamo visto già in passato come il titolo Parmalat si muova un po' ad ondate, a alcune fiammate a cui seguono poi delle prese di beneficio. Rimane una forte attesa per capire la cedola che la società distribuirà quest'anno, che potrebbe essere forse una sorpresa positiva per il gruppo. E c'è anche poi il focus sul prezzo di acquisto di Lactalis America dall'azionista di riferimento di Parma, Lactalis. C'è state molte polemiche su come l'azionista di maggioranza sta utilizzando la cassa di Parma, è intervenuta la magistratura, il CD ha deciso di rivedere il prezzo, insomma ci sono i conti e poi alcuni fronti aperti per la società di Collecchio. Per quello che riguarda ST Microelectronics invece il più 5,38% si spiega in gran parte con la decisione di chiudere l'accordo che la società aveva con Ericsson con lo spacchettamento della joint venture ST Ericsson attiva nei cellulari. In passato questa joint venture era stata al centro, come dire, dell'attenzione del mercato perché aveva creato molti problemi al gruppo italo-francese ST Microelectronics. Adesso si arriva finalmente a una conclusione di un'iniziativa che non ha avuto in passato molto successo e quindi il mercato premia. Per quello che riguarda A2A invece ricordavi tu che ci sono stati la settimana scorsa i conti, il titolo ha già guadagnato il 16% nelle ultime 3 sedute e gli operatori e gli investitori continuano a riposizionarsi sul titolo che appunto è tornato all'utile nel 2012 anche con una cedola di 0,026 euro considerata comunque importante. Beh, direi che abbiamo fatto tutto oggi, non c'era molto altro da aggiungere, vi do altri titoli chiaramente perché Ferragamo perde il 2,15%, Azimut il 2%, TOZ l'1,70%, Telecom l'1,60%, Prismian, Expirelli Cavi meno 0,80%, di positivo invece oltre a Parma, Testi Microelectronics e A2A c'è Finmeccanica più 2,30, Fiat più 1,40, l'automatica più 0,80%, migliori e peggiori, Enertronica più 40, ma poi c'è Parmalat, Ascopiave di nuovo più 5,70, peggiori, D-Mail meno 5, Industria e Innovazione meno 7,80 e poi poco altro, Telecom Italia Media meno 5%. 1,5%. Grazie Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi restiamo però in tema anche di borsa, perché adesso inizia l'approfondimento su Cipro, sia dal punto di vista di quella che è la proposta, molto dialogante ancora, poco fa è arrivata la notizia che stasera Nicosia presenterà la modifica alla tassa, che dovrebbe eliminare o ridurre di molto il prelievo sotto i 100.000 euro di conto corrente. Chiesto anche dalla Commissione Europea, che ha detto sempre che si raggiunga il livello di quasi 6 miliardi, è meglio che li preleviate da chi ha più di 100.000 euro sul conto corrente. Però, ripeto, sullo sfondo è chiaro che si guarda a Cipro pensando però agli altri paesi della parte debole dell'area euro. Prelievo forzoso del 9,9% su tutti i depositi oltre i 100.000 euro e del 6,75% su tutti i depositi bancari sotto i 100.000 euro. È la prima volta che per salvare l'economia di un paese vengono toccati i risparmi dei cittadini. Ieri gente inferocita ha svuotato gli sportelli del Bancomat a Cipro. E metà dei correntisti sono cittadini non residenti di nazionalità russa. Ecco perché Putin e Medvedev sono arrabbiatissimi. Putin ha detto, mi sembra un caso, vi leggo la dichiarazione per esteso, perché il premier russo ha detto: attenzione, con questa operazione la Russia è preoccupata non solo per chi ha depositi nelle banche cipriote, ma per tutti i depositi in altre banche di paesi a rischio, Spagna, Grecia e Portogallo. E poi Putin stesso ha definito la misura ingiusta, non professionale e pericolosa. E poi Medvedev ha detto: la tassa sui depositi sembra una confisca. In realtà il motivo è presto spiegato, perché l'esposizione più significativa verso Cipro è proprio quella russa. Le banche russe hanno tra i 30 e 40 miliardi di dollari di prestiti in essere con compagnie cipriote e 12 miliardi di depositi sono attribuibili a cittadini russi, la metà dei non residenti, ai miliardari russi. In realtà le banche italiane sono poco esposte, 900 milioni. Le più esposte sono quelle greche, 8 miliardi e 3, le tedesche 5 miliardi e 8 e le olandesi 1 miliardo e 6, poi le britanniche 1 miliardo e mezzo. Ripeto, l'Unione Europea ha chiesto tempo perché il Parlamento cipriota, scusatemi, ha chiesto tempo, il voto arriverà domani e da quello che si capisce sarà ammorbidita la parte per chi ha meno di 100.000 euro nel deposito. Le banche comunque resteranno chiuse non solo oggi, perché c'è la festa del lunedì verde, segna l'inizio della quaresima, dicevamo è proprio una quaresima questa, ma anche domani e dopodomani. E poi Morgan Stanley prima si è beccata il nostro gufo, perché ha detto si è rotto un tabù, c'è il rischio di un effetto contagio. Certo, più ne parli più l'effetto contagio si può verificare. E Moody's che dice con la tassa sui depositi si rischia la fuga di capitali. Tutto questo per fare in modo che Cipro possa avere 10 miliardi di euro di aiuti, finanziati però per 6 miliardi attraverso questo prelievo forzoso. Allora è chiaro che di Cipro ci interessa relativamente poco, sono 10 miliardi, ma ci interessa molto molto se questo può rappresentare la rottura di un tabù. Chiedo al professor Gustavo Piga, docente di politica economica all'Università di Tor Vergata. Buonasera innanzitutto. Buonasera, come sta? Bene, grazie. È l'unico che me lo chiede ogni volta. Vorrei capire se questi, al di là delle banche d'affari americane, delle agenzie di rating che ci giocano un po' a mio avviso, ma questo è la rottura di un tabù e può iniziare un effetto domino, dire beh, se l'ha fatto per Cipro potrebbero anche farlo per il Portogallo, per la Spagna e con l'obiettivo dell'Italia? Guardi, io di effetto domino ne vedo uno solo, che sta continuando e che certamente questa decisione su Cipro sta accelerando. Quando mi si chiede se vedo un effetto contagio, certo che lo vedo l'effetto contagio. L'effetto contagio chiarissimo è la totale disillusione, crescente disillusione che cresce in tutto il continente su questo progetto europeo che sembra non avere nessuna direzione. E soprattutto sembra assolutamente incapace di capire che cosa voglia dire la parola solidarietà. Io vorrei darle un po' di numeri, perché qui questi numeri di cui parliamo, 5,8 miliardi, rappresentano circa un terzo del prodotto interno lordo cipriota, rappresentano meno dello 0,1 per mille del PIL dell'area dell'euro. Se noi cittadini italiani avessimo dovuto pagare con i nostri soldi, con le nostre tasse, questi 5 miliardi per la nostra quota parte, avremmo dovuto pagare 13 euro. Ora si faccia un po' i conti sugli aumenti degli spread, perché ovviamente adesso l'area dell'euro, in effetti anche questo è vero, è un'area che mette più paura all'investitore indiano e all'investitore cinese, che dimostra di non capire la questione della sacralità del concetto di risparmio, di cosa vuole dire per una persona che tutta la sua vita ha messo da parte per la sua anzianità. Anche perché questa tassa è una tassa per molti versi profondamente iniqua. Da un canto è iniqua, parlo della tassa fatta dai ciprioti, da un canto è iniqua perché non tocca i ricchi ed è regressiva, non tocca i ricchi perché i ricchi tipicamente non mettono tanti soldi nei depositi e sono i primi comunque a scappare appena sentono odore di bruciato. E poi perché è una tassa fatta a casaccio, dipende dalle disponibilità liquide di quel particolare giorno e per di più. Se qualcuno mi si azzardasse a dire ma come adesso stanno cercando di spostarsi soltanto sopra 100.000 euro, io dico benissimo, allora sopra i 100.000 euro cosa vuol dire? Che stai tassando un ricco? Può darsi, e non lo sai perché l'hai fatta a casaccio, che tu stai tassando tutto quello che rimane a una persona per finanziarsi gli ultimi 20 anni della sua vita. E quindi mi dica lei se la percezione che sta uscendo fuori di questa Europa è quella di un continente che... voglio dire, pensiamo un attimo a chi sono questi ciprioti. Sono quelli responsabili per questo caos bancario su cui doveva sorvegliare anche la supervisione bancaria europea? Mm. 18 e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo analizzando il caso Cipro con il professor Gustavo Piga. Dunque, Piga, lei ha detto sostanzialmente, per chi se la fosse persa, andare a fare un prelievo forzoso sui conti correnti sopra 100.000 euro del 10%, da quello che si capisce probabilmente quelli sotto i 100.000 euro sarebbero risparmiati o comunque con un prelievo anche inferiore al 6% ipotizzato, è un doppio errore, perché da un lato trovare questi 7 miliardi che servono sui 10 complessivi lo si poteva fare in altro modo e con un costo di 13 euro per abitante europeo dell'area euro, e dall'altro si dà di nuovo il messaggio che anche questo tabù viene rotto. Terzo aspetto che lei sottolineava, è una misura iniqua perché rischi di colpire, pensiamo ai residenti, non solo ai miliardari russi che hanno i conti correnti lì, rischi di colpire chi ha magari 200.000 euro perché sta cercando di comprarsi una casa oppure perché li ha messi via come risparmio per il resto della sua vita, e magari uno che ha appena comprato una casa da milioni di euro ed è rimasto con 50.000 euro nel conto corrente verrebbe risparmiato. Però al di là di questo, io vorrei sapere, secondo lei qui stiamo parlando solo del caso Cipro, quindi di una decisione anche sbagliata, visto che oggi la Merkel ha rassicurato, le banche italiane hanno rassicurato, noi siamo poco esposti con Cipro, e quindi di una decisione sbagliata per reperire questi soldi, questi 10 miliardi o meglio questi 6 miliardi su 10, oppure è un numero zero, un tentativo, una parata generale per quello che poi potrebbe capitare anche a Portogallo, Spagna e Grecia, come ipotizza oggi per esempio ipotizzano i russi? Cioè si dà il messaggio che attenzione, questa è una via percorribile quando un paese non riesce a ripagare i suoi debiti? Guardi, sicuramente credo che questo messaggio è il messaggio che arriva forte e chiaro a chi sull'Europa legge ogni tanto i giornali, cioè a tutti quelli che non vivono in Europa e che sono per noi importantissimi, perché rappresentano in un mondo globalizzato coloro che dovrebbero sottoscrivere il nostro debito. Io penso veramente a un cittadino indiano, un cittadino americano, un cittadino cinese che leggono gli articoli in prima pagina del Financial Times e del New York Times e portano a casa semplicemente che il nostro è un continente, malgrado tutte le dichiarazioni, e tra l'altro le vorrei far presente che non è vero che ci sono state soltanto rassicurazioni, purtroppo il livello di incompetenza politica è tale che il presidente del gruppo dei ministri delle finanze, che è l'olandese Dijsselbloem, la sera, poi ovviamente è stato corretto, ha detto che lui non può escludere che in altri paesi, no, queste cose si leggono sulla rete, le legge il piccolo risparmiatore indiano come il piccolo risparmiatore cinese, che danno l'ordine alla propria banca di comprare qualsiasi titolo meno un titolo europeo, e non un titolo europeo cipriota, un titolo in euro in generale, quindi che gli spread sistematicamente adesso aumenteranno e che quindi altro che quei 5 miliardi che io ho chiamato piatto di lenticchie che potevamo tranquillamente evitare di far pagare in questo modo ai cittadini ciprioti, lo ripagheremo e di brutto. Quello che invece trovo conti per l'Europa è il fatto che abbiamo, senza essercene resi conto, lanciato per la quinta volta, e questa volta in maniera veramente cacofonica, il messaggio che i paesi continuano, e questo è il quinto paese su cui sono nell'area dell'euro, stiamo cominciando ad arrivare a più di un terzo, quando è che finiremo le risorse? È il quinto paese che andiamo, tra virgolette, a salvare senza salvarlo, perché sta passando in secondo piano che tutta questa storia è un finanziamento al governo cipriota per condizionato, come al solito, all'ennesima manovra di austerità di 4,5% di punti di prodotto interno lordo. Ma sa cosa c'è in più di sadico in tutto questo? Che non solo chiediamo le austerità, che sappiamo bene che non funziona a rimettere i conti pubblici bene e che comunque, vabbè, qui il Cipro è piccola, avrà un impatto negativo anche sulla domanda dei nostri prodotti di nuovo, ma di più, che siccome a questo abbiamo aggiunto insieme all'austerità la tassa patrimoniale iniqua, idiota e minuscola, a questo punto a Cipro i depositi spariscono, cioè spariscono in parte perché se li porta via il governo cipriota, ma spariscono in futuro, il che significa che le future banche non avranno da prestare alle imprese cipriote e quindi avremo una doppia austerità, l'austerità perché l'abbiamo pianificata e l'austerità perché il credito, che già sparisce nelle recessioni, tenderà a non esserci per i depositi. In tutto questo aggiunga, la prego, che gliela devo dire questa figliettina, sì, perché lei mi parlava di Russia, io le giuro che mi sono letto 2 giorni fa la dichiarazione di 2 pagine di Van Rompuy al termine del Consiglio, della seconda giornata del Consiglio europeo, dove si diceva quanto si era discusso durante la seconda giornata di quanto era importante, quanto era strategico il partner russo per l'Unione Europea. Allora se tu 2 giorni prima mi scrivi questo e poi 2 giorni dopo, tra l'altro la Russia aveva promesso pure un piccolo aiuto sui finanziamenti a Cipro, mi vai a rompere le uova nel paniere di Putin in questo modo, vuol dire che non hai la minima idea geopolitica di quello in cui tu ti sei imbarcato. Aggiungo e chiudo che io mi sono letto tutti gli articoli del Financial Times e le giuro di aver trovato i riferimenti di chi sono stati gli attori chiave di questa decisione così folle. Ce le dica. E sono tedeschi, finlandesi, che sembrano avere un potere favoloso in questo momento, e olandesi. A me sta bene questo. Io li trovo intelligenti i tedeschi perché si occupano delle cose. Io però non ho letto da nessuna parte qual era la posizione francese e qual era la posizione italiana su questa questione così importante, che manda dei segnali chiarissimi che questa non è l'Europa della solidarietà. Ora mi dirà, sì, c'è Monti, c'è Grilli, non c'è, ma voglio dire, è un governo che deve starci, certo abbiamo bisogno rapidamente di un governo forte che vada a sbattere i pugni in queste situazioni così ridicole, ma così facilmente sbrigabili, che è imbarazzante, sì, in tutto il mondo. Ma lei le pare che Obama si mette a fare di nuovo una patrimoniale se c'è una crisi in Alabama sui conti correnti della gente dell'Alabama? Obama si precipita, salva la casa dell'Alabama che brucia e poi gli dà un sacco di botte in testa e fa una regolazione migliore, ma la prima cosa che fa è che salvi la gente. Quindi sì, noi abbiamo aumentato il partito degli anti-euro in Cipro di un buon 50% della popolazione. Lei si renda conto a che livello di inettitudine si stanno incartando i nostri politici? Sì, i nostri politici, lei ha detto, l'assenza dell'Italia e della Francia è la responsabilità anche in questo caso della Germania, e della Finlandia. Tra l'altro io dico una cosa chiosa del suo commento, ma se Cipro e la Grecia fanno così schifo da e devono pagarla, perché le più esposte verso la Grecia e anche Cipro sono sempre queste banche tedesche, che sono sempre le seconde più esposte? Cioè, tu non presti soldi a chi ritieni poco affidabile e invece le troviamo sempre così esposte. Grazie però al professor Piga, ci risentiremo in settimana probabilmente anche per vedere l'effetto Cipro, io spero che non ci sia. Vorrei chiudere questa puntata con una buona notizia, e una notizia che riguarda le nostre piccole e medie imprese. Una buona notizia, dicevamo, certo è ancora presto per festeggiare in senso stretto, ma il tema dei pagamenti, degli arretrati che vanta la pubblica amministrazione nel pagare le imprese che hanno già fornito beni e servizi a lei, potrebbe essere in via di risoluzione. L'appello era arrivato in maniera molto netta e forte non solo dalla Confindustria, dal presidente Squinzi, ma anche dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Lo ricorderete, 5 giorni fa disse: è urgente sbloccare i pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese, dopo un incontro con lo stesso presidente Confindustria. Vi ricordo che stiamo parlando di una cifra che a seconda dei calcoli oscilla tra i 70 e i 110 miliardi di euro. 70% quasi sono debiti che ha la struttura sanitaria del paese nei confronti di imprese che hanno già fornito bene i servizi, ma è chiaro che con la situazione di recessione che c'è, vedere imprese che vanno in difficoltà perché non riescono a pagare allo Stato le tasse, ma vantano dallo stesso Stato centinaia di migliaia di euro di crediti, beh, è una situazione insostenibile. E comunque si rigiri, questo problema va risolto, perché questi soldi prima o poi lo Stato italiano dovrà ridarli. Dovrà darli, non ridarli, darli per la prima volta, pagare chi gli ha fornito un servizio. Il presidente Confindustria Squinzi, già ieri nella trasmissione di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa, era tornato a sottolineare come questo è anche un meccanismo per rimettere in moto l'economia, già restituire al più presto 48 miliardi su 71 miliardi, che è la stima ufficiale del Centro Studi Confindustria di quanto lo Stato deve alle piccole e medie imprese, alle imprese in generale. Già dicevo, rimettere... ridare 48 miliardi creerebbe poi un effetto volano e quindi un effetto virtuoso sull'economia stessa. Sentiamo questo passaggio. La priorità numero uno, che è diventata numero uno in questo momento e che ho evidenziato al Capo dello Stato mercoledì scorso, è quella di che lo Stato proceda al pagamento dei crediti arretrati con le imprese. Stiamo parlando di una cifra che è stata valutata da Banca d'Italia in 71 miliardi, 71 miliardi la valutazione di Banca d'Italia, che però sembrerebbe addirittura inferiore al reale. Noi proponiamo di liquidare immediatamente 48 miliardi alle imprese, tanti problemi automaticamente si risolverebbero. Non è uno Stato civile quello che non paga i propri fornitori. E dicevo, una soluzione potrebbe essere stata trovata in seguito all'intesa raggiunta oggi tra il commissario europeo Antonio Tajani e l'altro commissario all'economia Olli Rehn, in cui sostanzialmente l'Unione Europea apre alla possibilità di conteggiare in maniera flessibile il peso di questi pagamenti arretrati. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu li conteggi in maniera ortodossa vanno tutti caricati sul deficit, e quindi, visto che un punto di PIL sono circa 15 miliardi, pagare subito 48-45 miliardi vorrebbe dire avere un deficit che è peggiore di 3 punti percentuali. L'Unione Europea invece dice che il pagamento di debiti commerciali potrebbe rientrare tra i fattori attenuanti nella valutazione da parte di Bruxelles del rispetto degli impegni presi sul deficit. Se capisco bene, potrebbe quindi non essere considerata come un mancato impegno sul deficit. Ci sarebbe un deficit vero e proprio e poi invece un deficit che si viene a creare perché stai pagando debiti commerciali. Chiedo però spiegazioni e lumi al vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani. Buonasera. Buonasera. Allora, cosa vuol dire rientrare tra i fattori attenuanti? Cioè che non andrebbe questi soldi che lo Stato ridà, e quindi indebitandosi perché escono dalle casse dello Stato, non verrebbero calcolati in senso stretto come deficit aggiuntivo? Non sarebbero considerati come una violazione del patto di stabilità, cioè pagare questi debiti sarebbe considerato un una tantum eccezionale che non andrebbe ad intaccare il patto di stabilità nella sostanza. Quindi una interpretazione più elastica del patto di stabilità permetterebbe all'Italia di pagare i propri debiti nei confronti delle imprese senza incorrere in sanzioni da parte della Commissione europea. Questa è una scelta della Commissione, nel senso che rientra nelle potestà della Commissione europea interpretare il patto di stabilità e crescita. Quindi la interpretazione che abbiamo dato con la nota congiunta oggi, che porta la firma mia e del mio collega Olli Rehn, va in questa direzione. Quindi non una interpretazione rigida, ma un'interpretazione elastica che va in direzione della economia reale. Ultima parte di Focus Economia, in collegamento con noi da Bruxelles, scusatemi, vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani. Dicevo, bene questo accordo che permetterà, in cui l'Europa dice saremo più flessibili nel considerare che i soldi che lo Stato deve alle imprese italiane non vengano calcolati come deficit puro. Mario Monti ha detto questo è anche l'effetto della mia lettera, del mio testamento, del mio intervento all'ultimo Consiglio Europeo. È un effetto di Monti? No, il comunicato che abbiamo diffuso non è collegato alla riunione del Consiglio, perché la decisione, come ho detto, è stata presa precedentemente. Abbiamo atteso però che passasse il Consiglio, che passasse questo fine settimana per poterla annunciare, quindi non è collegata con la riunione del... Non è merito di Monti? Non è merito di Monti, perché non è competenza del Consiglio, quindi sono contento che il Presidente, il Primo Ministro italiano sia soddisfatto di questo e voglia l'Italia mettersi all'opera, ne sono ben lieto, però questa scelta non è una scelta del Consiglio, rientra nelle competenze esclusive della Commissione, interpretazione del patto di stabilità. Quindi non è l'effetto delle parole di Monti al Consiglio Europeo di mercoledì sera, diciamo. No, ma siamo in sintonia, ma non è effetto di quella decisione, non è una risposta a quella richiesta. La decisione come insomma. È chiarissimo quello che lei sta dicendo. È antecedente al Consiglio, però per non mischiare le cose abbiamo preferito attendere l'inizio di questa settimana. Ma la conferenza stampa era già stata convocata in anticipo. Quindi. Ecco. Onorevole Tajani, però al di là della posizione di Monti, è innegabile che il tema resti tutto, cioè questo potrebbe essere un primo esempio, un primo modo, un caso da laboratorio per distinguere tra deficit cattivo, e quindi quello che si fa quando non spendi più di quello che guadagni, che incassi, e spendi male, spendi per stipendi, per consulenze, per sprechi, per... e deficit buono, cioè tutto quello che spendi per investimenti che ti serviranno nel futuro, infrastrutture, defiscalizzazione in busta paga, quindi minori tasse in busta paga per generare più consumi, corsi di formazione, investimenti in cultura, ma soprattutto penso anche investimenti non sempre infrastrutturali, nel caso digitale. Cioè, secondo lei questo può rappresentare un caso pilota per arrivare a distinguere tra l'euro speso come spese correnti, come sprechi, come spese tra virgolette improduttive, e l'euro invece investito per il futuro? Qualunque imprenditore, quando spende, sa se la differenza tra spendere dei soldi per un macchinario o per una nuova rete commerciale, oppure spenderli per cose che invece sono sprechi, malfunzionamento e poca produttività. Non so se si tratta di un progetto pilota, certamente è un segnale all'economia reale, per cui per quanto riguarda la Commissione europea il patto di stabilità non è soltanto sacrifici, ma è anche un qualche cosa che può permettere alla nostra, attraverso un'interpretazione corretta, pienamente corretta, è anche un qualche cosa che va nella direzione dell'economia reale. Certamente un'interpretazione così piena rappresenta una svolta, quindi credo che sia un precedente importante, però non so se poi da questa ne conseguiranno altri. Certo, il messaggio è molto chiaro e molto forte, c'è un cambiamento, perché senza fare alcuna forzatura sul patto di stabilità viene interpretato nella sua pienezza. Ma lei, per concludere, si auspica che poi la direzione che deve prendere l'Europa possa essere questa direzione, cioè nel distinguere tra quello che spendiamo per il futuro per essere più competitivi e quello che invece spendiamo perché abbiamo una macchina pubblica inefficiente? Io penso che la stagione del rigore tout court debba concludersi quanto prima. Dobbiamo lavorare invece per il risanamento dei conti pubblici accompagnandolo questo lavoro con un'azione forte per la crescita, e per la crescita non credo che serva una politica keynesiana, però qualche investimento pubblico privato o anche pubblico per realizzare infrastrutture sia indispensabile per rinforzare la ripresa dell'economia, e se il patto di stabilità viene interpretato così come è stato interpretato oggi nella nota congiunta che porta la mia firma e quella del commissario Rehn, le infrastrutture potrebbero essere considerate come investimenti, quelli per infrastrutture come investimenti non in contrasto col patto di stabilità. Però questa è una mia opinione. Grazie al vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani. Grazie a voi. E do conferma invece a chi ce lo chiede che questa apertura riguarda i debiti del passato, cioè i 70 miliardi già acquisiti di arretrati. La direttiva europea che non abbiamo recepito, invece il pagamento a 30 giorni, l'Italia, come spiegava Tajani, l'ha recepita solo per i debiti futuri, non per quelli passati. Questa apertura, speriamo che l'Italia ne approfitti, riguarda invece i debiti passati da parte della pubblica amministrazione. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto comunque buona serata. Radio 24, la passione si sente.